La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qua allora di Cinema di Radio 24, un saluto da Franco D'Assisti e buon weekend, possibilmente al cinema, con i nostri consigli, con le vostre scelte, come ogni fine settimana. Settimana molto molto ricca questa per quanto riguarda le uscite, siamo a sopra 10 titoli nuovi in sala, insomma è davvero davvero tanta roba, tra l'altro anche con qualche film destinato a durare fino alle feste proprio canoniche di Natale. Insomma, la volata natalizia è cominciata, andiamo a ripercorrere però quelli che sono i titoli della trasmissione, i contenuti principali di questa nostra ora di cinema nei titoli di testa. Una famiglia perfetta, ma finta. Sergio Castellitto, protagonista della commedia di Paolo Genovese. Un film azzeccato, anche grazie a un cast corale con Marco Giallini e Francesca Neri in grande spolvero. Tre fratelli nell'America del proibizionismo lottano contro gangster e tutori della legge corrotti. Da una storia vera arriva sugli schermi Lawless, con Gary Oldman, Shia LaBeouf e Jessica Chastain. La vecchiaia, l'amicizia, il coraggio di andare oltre le convenzioni. È «Se vivessimo tutti insieme?» è la domanda che si pongono i protagonisti di questa bella commedia francese, amara come la vita e fresca come la gioventù. 30 anni fa Blade Runner cambiava per sempre l'immaginario del cinema di fantascienza. Per festeggiare il compleanno di quel film arriva in Blu-ray un cofanetto da collezione. Alla rosa purpurea, intervista esclusiva a Rutger Hauer, il replicante dei sentimenti umani del capolavoro di Ridley Scott. Ebbene, questi allora i contenuti della trasmissione, ma ci sarà anche molto altro, allora non perdiamo tempo, cominciamo subito ad andare in sala, ad andare dentro le novità del weekend. 570 schermi per quella che è, in termini quantitativi, sicuramente l'uscita della settimana, il film DreamWorks per questa campagna natalizia, si intitola Le Cinque Leggende, l'ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Giro il mondo da un bel potiere. Adoro stare per conto mio. Niente regole, nessuna responsabilità. È il primo ad apparire e il primo a presentarsi, Jack Frost, il ragazzo che porta freddo e gelo, ovviamente una delle cinque leggende del titolo, anche se ancora non sa di esserlo. A reclutarlo arriva il coniglio Pasquale. Ciao amico, quanto tempo? Dalla bufera del 68. La domenica di Pasqua, giusto? Sei ancora arrabbiato per quello, sul serio? Sì. Ma ora si tratta di un'altra cosa. Eccolo qua, Jack Frost! Babbo Natale, wow! Spero che i Yeti ti abbiano trattato bene. Sì, adoro essere sbattuto in un sacco e lanciato in un portale magico. Oh, bene, è stata mia idea. I quattro grandi tutti insieme. Babbo Natale, la fatta del dentino, Sandman e il canguro di Pasqua. Il che? Io sono un coniglio. Qualche cosa in più su queste leggende e sul loro compito ce la dice Babbo Natale. Abbiamo tanti nomi. E prendiamo tante forme diverse. Portiamo meraviglia. E speranza. Il nostro compito è proteggere tutti i bambini del mondo. Perché finché crederanno in noi, li proteggeremo anche a costo della vita. Jack si unisce al gruppo perché l'uomo della luna lo ha segnalato agli altri quattro come indispensabile per combattere Peach, l'uomo nero, il buio, quello che più spaventa i bambini. Fly away beyond the moon. Le leggende del nuovo lavoro della DreamWorks sono alcuni dei personaggi più amati dai piccoli, non tutti però ugualmente noti nel mondo. Mito nordico e tradizioni anglosassoni insieme, comunque protettori dei bambini e dei loro sogni. Volendo fare un paragone con eroi per spettatori un po' più grandi, si può parlare di Avengers o X-Men da favola. Nella versione originale anche voci da star, Babbo Natale e Alec Baldwin, Cal Moniglio, Hugh Jackman, Jack Frost e il giovane Capitano Kirk, Chris Pine. Infine Jude Law fa il cattivo. Più favola di Shrek e Kung Fu Panda, di cui manca la verve comica ma resta l'ironia. Nelle parti dark si vede il tocco di Guillermo del Toro come produttore. Il punto vincente di questo film sta nell'essere visivamente spettacolare. Si è detto che per il pubblico italiano la scarsa conoscenza di alcuni personaggi potrebbe essere penalizzante. I primi spettatori, soprattutto i più giovani, si sono adattati molto facilmente. Molto bello, emozionante, fatto molto bene. Il coniglio Pasquale quando era piccolino e anche la fatina dei dentini. Li conoscevi questi personaggi? No. Però ti sono piaciuti lo stesso? Sì. Era soprattutto bella la parte finale, che si resuscita l'omino del sonno e dal colpo di grazia all'omino della paura. Li conoscevi tutti? Ad eccezione di Jack Frost. E quello di Babbo Natale ha cambiato solo il nome da Babbo Natale a Nord. Ebbene, allora, questi pareri dei più piccoli, che sono forse i maggiori destinatari di questo film, Cinque Leggende, che, come diceva Chiara, è forse più favola di altri prodotti DreamWorks recenti, ma che insomma esce con una battaggia importante, quindi aspettiamocelo in alto in classifica stradominata ancora dai vampiri di Twilight dell'ultimo capitolo, Breaking Dawn parte 2. 16 milioni già raggiunti in Italia, 225 in America, successo clamoroso. Ma attenzione, perché al secondo posto arriva Il peggior Natale della mia vita, con un buon esordio per il film di Alessandro Genovesi, con 2 milioni e mezzo di euro. Questo lo scorso weekend, vedremo cosa succederà in questo con tutte le novità. Voglio anche dirvi che nel frattempo sono arrivati i vincitori del Torino Film Festival, che si chiude proprio in questo sabato sera, 1 dicembre. E allora la giuria, con Paolo Sorrentino e Franco Piersanti, ha dato il premio per il miglior film a Shell di Scott Graham, film inglese. E poi premio speciale della giuria ex aequo a Noi non siamo come James Bond, un film italiano di Mario Balsamo, e a Pavilion di Tim Sutton, film statunitense. Questo è proprio verdetto arrivato in questi minuti per il Torino Film Festival, 30ª edizione. It's the most wonderful time of the year. Clima natalizio anche nella colonna sonora per Una famiglia perfetta di Paolo Genovese, con Sergio Castellitto, Claudia Gerini, Marco Giallini, Carolina Crescentini. Finiscono tutti i nini, giuro. C'è anche Eugenia Costantini. Insomma, è un cast, però un cast grande, anche se c'è questa conclusione così piccolina. Dicevamo, periodo natalizio, vigilia di Natale in uno splendido casale sulle colline umbre. Leone, un cinquantenne ricco e misterioso, si accinge a festeggiare l'avvento con la sua famiglia: moglie, bionda, bella e affettuosa, fratello, guascone e spiritoso, cognati, figli. Ma quella famiglia non esiste, quella famiglia è una farsa, una messa in scena, una compagnia di giro di attori teatrali appositamente ingaggiata da Leone per farlo sentire un po' meno solo, almeno in occasione della santa festa. Senti da solo. Uno che si sente solo non paga una compagnia di attori. Al massimo paga una puttana. Secondo me questo si deve sposare e sta facendo l'addio al celibato. Ma che c'entra? Mica uno per fare l'addio al celibato chiama una famiglia. Che dici? Perché no? Vuole vedere come sarà. Mi sembra anche una buona idea. Tutto procede come da copione, letteralmente. Ogni volta che Leone si allontana, gli attori danno una sbirciatina alla sceneggiatura per sapere cosa li aspetta. Sì, perché Leone è molto esigente, anche negli screzi vuol sentire profumo di verità. E poi gli piace improvvisare, mettere gli attori parenti di fronte al colpo di scena e vedere come se la cavano. Un lavoro snervante ma ben pagato. E allora via con Natale, coi suoi riti troppo consumati, come quello della tombola. La tombola ha delle regole ferree. La tombola, non il bingo, da sempre in tutte le famiglie. Dico, chi siamo noi per cambiare queste regole? Regola numero uno: all'uscita del primo numero c'è sempre un coglione che grida Ambo! Ecco, quel coglione in questo caso, sei tu. Va bene. Tornato, calmati. E mi sono calmato, mi sono calmato. Passa. Poi c'è sempre qualcun altro che fa cadere dei fagioli. Ecco, fateli cadere voi, sì. Va bene? E qualcun altro che quando escono i numeri dice è uscito quel numero, è uscito quell'altro. Facciamo noi. Fatelo voi, benissimo. Certi numeri sono accompagnati necessariamente da alcune frasi idiomatiche. Tipo 23 bucio de culo. Perfetto, brava mamma, questo lo dici tu. Tutto quanto sin qui raccontato avviene nei primi 10 minuti del film, quindi nessun segreto svelato, anzi questo è l'assunto di Una famiglia perfetta. L'obiettivo vero è invece indagare su quanto finzione e realtà riescano a fondersi, su quanta verità riusciamo a far passare attraverso le maglie delle nostre maschere. Come in tutte le commedie amare, sarà l'irrompere di un personaggio misterioso a cambiare le carte in tavola, a rivelare i veri rapporti fra i personaggi e a dirci che forse nella finzione c'era più verità di quanta potessimo aspettarcene. Quando è che un uomo diventa stronzo? Oh, mi interessa dal momento che appartengo alla categoria degli uomini, spero. Gli stronzi per me sono quelli che hanno paura di prendersi le proprie responsabilità. E lui non se le prende? Lui è finto. Ha finto con me, è finto con la moglie. Ma che vita è? Ma perché non lo lascia, scusi? Perché mi sento in colpa. La sua famiglia funzionava, lui stava bene con la moglie. Mm. E poi Poi sono arrivata io e... boom, la bella famigliola è saltata. Come la capisco? Come fa a capirmi? La sua sembra proprio la famiglia perfetta. La famiglia perfetta non esiste. Beh, la sensazione la sua si avvicina molto. Anzi, secondo me è proprio il destino che mi ha portato qui per mostrarmi quello che mi sto perdendo. Un film pirandelliano, commedia sì, ma con i piani di verità e finzione, recitazione, vita vera, talmente mischiati da confondersi sul finale. La regia di Paolo Genovese adatta un film dei primi anni 90 dello spagnolo Fernando León de Aranoa, Familia, rendendolo meno noir e in certi momenti più grottesco, certo più adatto al nostro sentire. Gli attori sono strepitosi, con una menzione speciale per Sergio Castellitto, preciso nei panni di un leone sospeso fra malinconia e patologica megalomania, Marco Giallini, mestierante di razza in quelli del capocomico, e Francesca Neri, la donna della verità, finita per sbaglio nelle maglie di questa macchina della finzione, ma in grado di invertirne il movimento. E poi Claudia Gerini, Ilaria Occhini, Carolina Crescentini, tutti bravissimi. Una famiglia perfetta è un film di Natale tagliente, a tratti crudele, che fugge finalmente, grazie al cielo, dagli stereotipi del cinepanettone e della commedia buonista, pescando nel meglio della tradizione francese, vedi Racconto di Natale di Desplechin, ma senza dimenticare la lezione dei monicelliani parenti serpenti. Dai, ora hai anche un fratellino. Sì, peccato che io sono adottivo. Cosa? L'ha detto papà. Io sono adottivo e lui è quello legittimo. Papà, ma questo è un mostro, dai. Ha detto che mi avete preso a 2 anni perché mi sono morti tutti e 2 i genitori. Amore, come sono morti? Non l'ha detto. Fa niente, fa niente. L'importante è che sono morti, va bene? Com'è? Oh, dovete memorizzare il fatto che sono morti. Allora, ripetiamo tutti insieme. I genitori di Daniele sono morti. E allora questa era Una famiglia perfetta nei cinema italiani. È il momento di cominciare a giocare insieme, come sempre, alla Rosa Purpurea @radio24.it. Dovete dirci il titolo di un film misterioso. Noi sentiamo la prima clip. Dobbiamo sgomberare un manufatto occupato da pericolosi anarco-insurrezionalisti. Con quali uomini? Metà stanno a letto e l'altra metà non lo so dove stanno. Con quelli che riesci a trovare. Più sono, meglio. Come li riconosciamo? Alle 22.45 tutti sotto la questura. Bene? Anzi... 22.44. La Rosa Purpurea @radio24.it. Titolo del film, se l'avete indovinato, vostro indirizzo per agevolare poi le operazioni di spedizione e più tardi altre 2 possibilità per il nostro game. Passiamo a un altro film importante di questo ricco, ricchissimo fine settimana, perché torna, sebbene in questo caso solo nei panni di attore, sul grande schermo Clint Eastwood. E permettetemi, tutte le volte che Clint Eastwood arriva sul grande schermo io mi commuovo un po', per cui vederlo anche questa volta nei panni di un vecchio saggio, di uno che la vita l'ha vista, nei panni stavolta di un osservatore, di uno scout di baseball, di questo sport così americano che però ha dato origine a film così straordinari, è sicuramente una cosa molto interessante. Allora sentiamo la clip e poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Lo mandiamo a dare un'occhiata a Gentry? Perché no? La Carolina è il suo territorio. Il draft è 3-9 giorni e non voglio avere sorprese. Gus è uno dei migliori scout che il baseball abbia mai avuto. È l'uomo che ha scovato Ralph Garr, Dusty Baker, Dale Murphy, Tom Glavine. Con tutto il rispetto, Pete, il baseball è cambiato. È importante, è diventato un gioco globale. Devi stare al passo coi tempi, Gus non usa la macchina da scrivere, figurati il computer. A nessuno piace l'idea, ma forse è pronto per andare in pensione. Allora, Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buonasera a tutti gli ascoltatori. Anche tu reduce da Torino. Allora, Boris, parliamo di questo film, di nuovo in gioco. Tra l'altro il titolo originale è molto interessante, però in questo caso forse troppo tecnico per il mercato italiano, perché si chiama Trouble with the Curve, cioè problemi con le curve, cioè con un tipo di lancio particolare del baseball. Insomma, era troppo da tecnici per arrivare da noi sano e salvo. Però ricordiamo la regia di Robert Lawrence, quindi non di Clint Eastwood in questo caso. Clint Eastwood, che troviamo nel cast con Amy Adams nei panni di sua figlia, ritroviamo soprattutto Clint Eastwood nei panni che aveva già un po' vestito, se vogliamo, in Million Dollar Baby, cioè quello dell'allenatore, quello del coach, quello dello scout, quello del grande vecchio di uno sport che ne ha viste di tutti i colori e che deve fare i conti con la modernità, però forse non con la stessa efficacia questa volta. No, assolutamente no, credo che questa volta la commozione o le lacrime arrivino per la brutta l'altezza del film, non per la bravura di Eastwood. Comunque la sua interpretazione sicuramente la porta a casa, però ci vuole veramente tanto tanto affetto per il grande Clint, che per quanto mi riguarda al cinema è uno dei miei spiriti guida, ma che in questo caso purtroppo prende un film, anche se non è lui ma Lawrence a dirigerlo, uno dei suoi pupilli, quindi insomma in qualche modo il racconto di un uomo che cerca il suo pupillo, diretto dal suo pupillo, rende il cortocircuito tra realtà e finzione interessante, ed è una delle prime cose interessanti. Non voglio fare il titolista perché non è la mia ambizione, ma certo se lo si chiamava giocata d'effetto forse si manteneva una fedeltà buona al titolo normale, e forse si dava anche un senso maggiore al film, perché poi è attorno a questa giocata d'effetto che si costruisce tutto il finale, che è sicuramente una delle cose migliori. Di nuovo in gioco un problema, è un film molto vecchio come struttura, è il classico film sportivo che viene peraltro dopo Moneyball, che invece irrompe nella modernità, in qualche modo sembra anche una risposta un po' ostiosa a Moneyball, tanto Moneyball con Brad Pitt e diciamo i computer all'interno del baseball voleva raccontare come uno sport può coniugarsi con le nuove tecnologie, quanto questo scout, cioè questo scopritore di talenti che nei draft prendeva sempre i giocatori più forti, che comincia a stare male, che comincia a non vederci più, ma continua con il suo orecchio a capire solo dal rumore che fa la palla sulla mazza qual è il giocatore bravo e il giocatore cattivo. Chiaramente no, c'è questo richiamo anacronistico alla purezza dello sport. Il fatto è che il film è troppo ingenuo, ha un Amy Adams molto brava che prova a portarsi sulle spalle il film, ma come regia francamente è davvero elementare, e come storia lo è ancora di più, quindi è uno dei pochi Eastwood degli ultimi anni, anche solo come attore, che non riesce a soddisfare nemmeno i suoi fan più accaniti. Sì, è un Clint Eastwood che effettivamente anche da regista negli ultimissimi film non è che sia sempre stato, insomma, all'altezza di Gran Torino, per intenderci, forse, però insomma è comunque sì, c'è diventato troppo indulgente in un certo senso, non so come forse la vecchiaia, anche se lui è da un po' che la vecchiaia insomma la vive, quest'ultima parte della vecchiaia l'ha reso troppo incline a una certa retorica. Sì, esatto, una retorica che per esempio in The Sweet Hereafter era abbastanza ingombrante, insomma. Comunque questo è Di nuovo in gioco nei cinema italiani. Noi cambiamo film, tema, argomento, non cambiamo lato dell'oceano, perché rimaniamo con un film che si intitola Lawless, che ha un cast che insomma leggerlo fa una certa impressione, da Gary Oldman a Guy Pearce, da Shia Buff a Jessica Chastain, e ha delle atmosfere che sono atmosfere, sì, di quell'America del proibizionismo, però anche quasi un po' blues, un po' di periferia, un po' di provincia. Sentiamole e ne parliamo. Che dice a Forrest di prendere la roba mia di cricket? Sta venendo una bomba. Cosa ci facciamo? Ci lasciate partecipare. Con quello spaccabudella. Lo stiamo perfezionando. Perfezionando un cazzo, quella merda non se la bevono neanche i maiali. Forrest non vuole che siate coinvolti. Fine. Perché? Perché pensa che non hai la grinta. Dammene un'altra. Ah? Datti una regolata, stiamo cercando di venderla. Virginia dei primi anni del proibizionismo, tre fratelli di Bon Duran che distillano alcol, insomma alcolici, li avete sentiti qui chiacchierare, che cercano di immischiarsi con le gangster storiche, insanguinano per esempio le strade di Chicago, ma che a un certo punto dovranno fare i conti con questa malavita molto organizzata e molto molto cattiva. Tra l'altro tratto anche questo Lawless, il film di cui vi stiamo parlando, da una storia vera. Con quali risultati, Boris? Ma è difficile dirlo, io sono molto scettico sul reale talento di Hillcott, che mi sembra uno che si sceglie belle storie per renderle poi piatte. Penso a The Road di Cormac McCarthy, che aveva una storia straordinaria, che sembrava un film buono proprio perché la storia era straordinaria, ma che a mio parere non si avvicinava neanche alla potenza del libro. In questo caso secondo me il libro ha una storia interessante, ma non è particolarmente buono. È il libro tra l'altro di, se non sbaglio, un nipote, Matt Bondura. Sì, comunque uno di famiglia, sì. Esatto, uno di famiglia dei tre fratelli protagonisti, che appunto sono dei criminali che sfruttano questa situazione di proibizionismo in Virginia. grandissimi attori, ma tantissimi, Jessica Chastain, Tom Hardy, Gary Oldman, c'è veramente di tutto. C'è una bella sceneggiatura, secondo me, di Nick Cave, che comunque costruisce un interessante gangster movie che forse vorrebbe fare l'occhiolino a Michael Mann. E poi però l'impressione è che non si vada, come succede a End Road, mai in profondità, che i personaggi siano tutti abbastanza bidimensionali, che con questi attori che hanno dimostrato di poter invece scartavetrare l'anima dei loro personaggi è davvero un delitto. E quindi ci si ritrova in un gangster movie, per carità, non brutto, che di sicuro agli appassionati del genere può piacere, ma che come in tutti i film degli Hillcott hai l'impressione che sia soprattutto una grande occasione persa, un grande film oppure un film che poteva diventare grande e che invece rimane piccolino, rimane sul sicuro e si diverte a giocare con il mestiere più che con l'arte. Quindi non mi sento di non consigliarlo, perché sicuramente agli appassionati del genere potrà piacere, ma non mi sento neanche di consigliarlo con chissà quale entusiasmo. E allora, grazie Boris, sentiamoci la prossima settimana. Alla prossima settimana. Ed eccoci ancora insieme, La Rosa Purpura, dicevamo, un altro film, un'altra novità in sala, la quinta di cui vogliamo occuparci in questa puntata, un film che però vogliamo segnalare perché ha un tema molto importante al centro. Cinque amici, tutti ultra settantenni, che si conoscono da 40 anni, due coppie e uno scapolone impenitente, vivono con grinta ma anche con crescente preoccupazione il loro destino di vecchi. È un po' il tema al centro di "E se vivessimo tutti insieme?", questa domanda col punto di domanda è proprio il titolo del film. Per qualcuno il problema è la memoria, che non è più quella di un tempo, per altri il cuore che fa le bizze, la solitudine è più di un rischio, un po' dietro l'angolo, e le nostre città, si sa, non sono fatte a misura di anziano. E così una sera a cena viene fuori quella che nasce come una battuta e diventa subito però un programma di vita. E se vivessimo tutti insieme? Dovremmo riflettere seriamente su questa faccenda d'andare a vivere insieme. Ma che ti viene in mente? Pensi di essere un hippie? Ci sono solo vecchi qui. È fuori discussione che lasci crepare un vecchio amico in questa stamberga. Ma siete completamente incoscienti, cazzo! Oh! Quello che mi interessa di più è lo sguardo del mondo contemporaneo sugli anziani. Il suo professore gli ha detto che la nostra comunità è di tendenza. Quello che gli interessa è come vivremo, le nostre attività casalinghe, culturali, sessuali, qualche volta. Insomma, la convivenza non è sempre facile. Da vecchi, si sa, si diventa meno malleabili, ma le alternative, come appunto avete sentito, gli ospizi senza anima, sono sicuramente peggio. Destini da cui fuggire per restare fino alla fine con gli sguardi e le attenzioni di chi ti ha accompagnato per tutta la vita. L'idea, quella dei vecchi che si coalizzano e dicono di no alla società della disattenzione, c'è sicuramente. È interessante, cerca un pubblico del cinema sempre più ampio e sensibile. Pensate al successo a Cannes, per esempio, di Amour, di Michel Haneke, che poi è arrivato anche nei nostri cinema. Del resto, l'invecchiamento della popolazione è sotto gli occhi di tutti, anche se sembra a volte che ci abbiano allungato la malattia più che la vita. La regia di Stéphane Robelin è però troppo convenzionale e, alla ricerca di un tono da commedia universale, rischia di vanificare tutto il materiale tematico e umano a sua disposizione, a partire da un cast stellare che va da Jane Fonda a Geraldine Chaplin, passando per il Daniel Brühl di Goodbye Lenin, qui nei panni del giovane dottorando tedesco badante che cerca il punto di vista, che poi è il punto di vista del regista. Una regia però troppo piatta, troppo flat, solo in parte riscattata da un finale comunque coraggioso. Giochiamo ancora insieme, è arrivato il momento di ascoltare la seconda traccia del film misterioso di oggi. Hanno devastato la città. Che cosa si aspettavano? E noi siamo più utili sul posto a raccontare davvero le cose che accadono. Cos'è che rischiamo di fare 30 morti oggi, sì? Io non andarmene da sto posto del merda. La Rosa Purpurea @radio24.it. Di che film si tratta? Titolo, vostro indirizzo, provate, perché c'è in palio un Blu-ray di questo film per il più bravo e veloce del sabato e della domenica fra i nostri ascoltatori. Più tardi avremo un'altra, l'ultima possibilità. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. Le note immortali e assolutamente note, questa che si può anche dire, le note di Vangelis e della colonna sonora di Blade Runner. Avete sentito il monologo, uno dei più famosi di tutti i tempi della storia del cinema, lo recitava un Rutger Hauer replicante appeso, così un po' penzolante dai grattacieli di una Los Angeles coperta dal buio, dalla pioggia, in questo film che ha cambiato decisamente la storia del film, del cinema di fantascienza. 30 anni fa, esattamente verso la fine di ottobre del 1982, usciva nelle sale Blade Runner di Ridley Scott con Harrison Ford e Rutger Hauer, appunto, un film destinato a incidere nell'immaginario collettivo l'idea di città del futuro, di città abbastanza devastata del futuro. Con questo buio, dicevamo, che sembra eterno, una pioggia persistente e un cacciatore di replicanti come protagonista. Noi abbiamo incontrato Rutger Hauer in questa occasione, i 30 anni di Blade Runner. Lo abbiamo incontrato a Milano in occasione del lancio della lussuosa edizione speciale in Blu-ray del trentennale, della quale fra poco ci faremo raccontare i particolari da Claudio Poffi. È stata una bella occasione. L'intervista si è aperta, tra l'altro, dopo una disavventura che vi abbiamo anche registrato e che avrebbe messo a dura prova i nervi di chiunque. L'attore olandese era rimasto bloccato in ascensore, ma quando i pompieri hanno aperto le porte lo abbiamo trovato lì sdraiato col suo telefonino a riprendere la scena. Cominciamo con Rutger Hauer. Lei ha visto cose che noi umani non possiamo immaginare, ma ha visto anche gli ascensori italiani adesso. Yeah, I did make it, yeah. I was just happened to shoot after 20 minutes in the elevator. Sì, esatto. Mi sono dedicato ad alcune riprese dopo che ovviamente mi ero assicurato che sarei uscito vivo dalla situazione. Ho acceso la funzione video del mio telefonino e ho fatto alcune riprese di questo particolare evento e dei pompieri che ci hanno salvato. È stato divertente. Very funny, very nice. Chiederò a Rutger alcune cose riguardanti ovviamente Blade Runner. Cominciamo dalla chiamata di Ridley Scott, perché so che si dice che l'unico personaggio per il quale lui non abbia fatto provini, non abbia voluto, aveva già in mente Rutger Hauer, era proprio il personaggio di Roy. Come ricorda quel giorno, come ricorda quel contatto, come ricorda quella proposta? I don't know what happened. You'd have to ask them. Tutto quello che è successo prima della chiamata non posso saperlo. So che il mio agente a un certo punto mi ha chiamato, mi ha detto che avevo un copione da leggere e che dovevo fare a mia volta una proposta su un progetto che era molto solido, già consolidato e pronto per partire. Non appena ho letto il copione, mi sono reso conto che era un po' come tornare a casa per me. Un'incredibile sensazione a cui hanno fatto seguito tutta una serie di domande del tipo: dovrò fare quello che prima di dormire conta le pecore elettriche? Però al di là di queste domande tecniche, ho amato subito il copione. Ricordo molto bene quello che mi disse. Non era un vero film di fantascienza, ma era un film che intendeva mettere il genere umano in contrapposizione a un personaggio, un ruolo, che andava studiato. A study of mankind. Poi le riprese, poi una riprese molto lunghe, 50 giorni di pioggia, si racconta, insomma, che misero a dura prova anche il clima sul set. Pare che Harrison Ford fosse particolarmente snervato alla fine delle riprese. Lui invece cosa ricorda di quei giorni sul set? Com'era il clima proprio su questo set così astratto e così diverso dal nostro mondo, insomma? Yeah, well, the atmosphere, you know, it was a movie. Stavamo plasmando il futuro, quindi potete immaginare il lavoro che è stato fatto sulle scenografie, sul set. La parte grossa per noi attori inizialmente è stata questa. Per la creazione di un set erano richiesti anche fino a 5 giorni, per poi girare un paio di minuti di scena. Noi avevamo la nostra parte di attesa, Tutte le persone che hanno lavorato hanno avuto momenti molto snervanti, però l'atmosfera era incredibile. È vero, c'è stata moltissima acqua, moltissimo fumo. Spesso c'era questa atmosfera cupa perché bisognava dare un totale senso della realtà. Quello che è stato incredibile per me è che tutte le mattine andavo sul set con le farfalle nello stomaco, perché sapevo che tra me e Ridley c'era questa continua scintilla. Lui mi spiegava qualcosa, io gli davo la mia rilettura ed era un dialogo assolutamente eccitante. Ogni volta che rivedo il film è come se mi guardasse negli occhi e mi dicesse: stai capendo? Stiamo parlando del tuo futuro. C'era la percezione di un immaginario che si stava creando e che sarebbe rimasto 30 anni dopo assolutamente vivo, anzi un punto di riferimento. Non dico magari i loro attori, ma almeno Ridley Scott ce l'aveva questa percezione. Non volevamo creare un futuro che fosse così lontano da noi. Quindi il disegno di Ridley era un prolungamento di quella che era la realtà. La proiezione di un immaginario e di pensieri, che però erano già insiti nella natura umana, che esistevano già tra di noi. La grande sfida era creare un mondo che lo spettatore riconoscesse come suo fino a poco tempo prima, ma che poi era crollato in pezzi. Ed è stato così. Abbiamo cercato di andare nel futuro tenendo bene i piedi nel presente, un po' come una mossa di arte marziale, dove metti un piede in avanti e quel piede è già il piede indietro della mossa successiva. The master and the genius of Ridley's mind. Harrison Ford ha definito le riprese di Blade Runner come una guerra. Perché? Well, it's I think I felt in the chemistry between Ho passato con Harrison Ford solo 5 giorni di riprese dei 4 mesi in cui è stato girato il film, quindi non posso entrare nel merito di questo loro rapporto. Quello che so però è che c'era il fattore British tra i due. L'americano Ford e l'inglese Scott esprimevano due mentalità che viaggiavano ad una velocità diversa. A mio parere, Harrison non è riuscito a leggere esattamente nella mente di Ridley Scott, proprio perché aveva un suo atteggiamento, un suo approccio al personaggio, quasi da cartone, ed è un aspetto che personalmente non ho apprezzato. Però so che Ridley era molto contento della performance di Harrison Ford. Sì, qui Rutger Hauer, intervista esclusiva alla Rosa Purpurea per raccontare i 30 anni di Blade Runner. Avete sentito anche quanti retroscena sulla lavorazione del film, sulla vita sul set, su questo rapporto non particolarmente idilliaco fra Harrison Ford e Ridley Scott. Dicevamo, l'occasione appunto, l'edizione speciale della Blu-ray con 3 dischi della Warner per il trentennale, ce la facciamo raccontare da Claudio Pofi. Sì, allora per Blade Runner l'edizione 30° anniversario Blu-ray da parte di Warner, all'interno di questo cofanetto sono presenti tutte le versioni esistenti del film, la theatrical dell'82, l'internazionale dello stesso anno che differisce solo per alcuni secondi di immagini violente, la director's cut del 92 e la final cut del 2007, oltre alla rara versione con il primo montaggio dell'82 che contiene titoli di testa diversi, battute diverse e sequenze inedite, eccetto quest'ultima. Le restanti versioni sono tutte di superba qualità, l'audio ad alta risoluzione multicanale solo per l'inglese e l'italiano come sempre in Dolby Digital 2 o 6 canali. Sono tantissimi extra, tra cui una inedita galleria foto con oltre 1000 immagini ad alta risoluzione, un artbook di 72 pagine e tra i notevoli supplementi segnalo 48 minuti di scene tagliate e alternative, oltre a un mega documentario sulla realizzazione di 214 minuti. Insomma, ce n'è davvero per chi vuole saperne di tutto e di più di Blade Runner. Insomma, c'è davvero tanta ciccia in questo cofanettone del trentennale. Grazie Claudio, rimani con noi perché fra poco dobbiamo parlare delle novità in Blu-ray e DVD. Ed eccoci qui alla quarta parte della Rosa Purpurea e stiamo al momento di parlare proprio dei film da vedere in casa, dei film da recuperare, del grande cinema proposto in chiaro e gratuitamente dalla TV e poi anche dall'home video, meno gratuitamente ma comunque sempre con grandi risultati. Cominciamo subito a dare un'occhiata ai palinsesti della prossima settimana con gli amici della redazione di Film TV, dove ci aspetta il nostro Giulio San Giorgio. Ciao Giulio! Ciao Franco e ben ritrovati con le nostre segnalazioni. Allora, cominciamo da un grande capolavoro oggi, perché lunedì 3 dicembre Rai Movie manda in onda un film di Howard Hawks, che è una vera e proprio una vera e propria pietra miliare di un certo tipo di cinema, con il poliziotto Philip Marlowe, l'ex poliziotto investigatore privato Philip Marlowe protagonista. Stiamo parlando di Il Grande Sonno. Sì, lunedì 6:30 Rai Movie Il Grande Sonno. È uno dei paradigmi del genere noir, una pietra miliare che riunisce personalità entrate nella storia. Innanzitutto è girato da Howard Hawks, regista che Truffaut sosteneva possedere quel grande segreto, ovvero una capacità di racconto per immagini geniale e mutuata dal cinema muto. È un film tratto da un intricatissimo romanzo del re dell'hard boiled Raymond Chandler ed è inoltre il quarto film sceneggiato per Hawks da uno scrittore leggendario come William Faulkner. E poi ovviamente ci sono loro, il Marlowe di Humphrey Bogart e la meravigliosa Grazia di Lauren Bacall, che i due facevano coppia nella vita, e il film, contraddicendo il romanzo, si adegua alla realtà facendo l'uno l'innamorata dell'altra all'interno del film. E allora questo è Il Grande Sonno, lunedì 3 dicembre, ore 6:30 del mattino su Rai Movie. Immagino che puntiate il videoregistratore. E l'altra segnalazione della settimana prossima è invece un film di Kinky Duke, che prima di razziare premi a destra e sinistra nei festival dirigeva nel 2004 La Samaritana. La Samaritana, mercoledì alle 22:55 su Iris. È il decimo film di Kinky Duke, vincitore del Festival di Venezia di quest'anno con Pietà. È un film diviso in tre parti sulle vicende di due giovani ragazze che si dedicano alla prostituzione. Sono vicende che degradano nel suicidio, nell'omicidio e che infine cercano un barlume di salvezza. Sempre più lontano dal cinema primitivo e furioso dei suoi inizi, Kinky Duke tenta l'impossibile elaborazione di un lutto, che è quello per la morte della morale. Ne emergono una lucidità e un'umanità strazianti che mettono la pelle d'oca e non offrono facili risposte a domande che sono sicuramente più grandi della vita. Orso d'oro alla regia a Berlino per appunto Kinky Duke. E allora datevi un'occhiata a questo film davvero straordinario, mercoledì 5 dicembre alle 22:55 su Iris. Grazie a Giulio San Giorgio e agli amici di Film TV. Grazie a te Franco e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. Ebbene, prima di passare invece all'home video, giochiamo insieme con la terza e conclusiva traccia del film misterioso di oggi. Allora, c'è stata una canita resistenza nella scuola che veniva usata come una specie di ospedale. Che cosa vuol dire che era un ospedale? C'erano molti manifestanti con ferite pregresse. Abbiamo trovato armi. Allora, la rosa purpura @radio24.it, di che film si tratta, nome, cognome, indirizzo per provare a vincere il film in questione in edizione Blu-ray per il sabato e per la domenica per i nostri ascoltatori. 7 giorni fa avevamo giocato con questa clip. Sta collezionando un bel numero di cadaveri. È stata prima torturata, dato che lei aveva già ucciso il marito, era l'unica da interrogare. Sapeva qualcosa che può comprometterla? No. E allora, avevamo detto una trilogia, un cofanetto, una saga, insomma un grande titolo che ancora oggi assolutamente in classifica. Parlavamo di 007, parlavamo degli 007 di Daniel Craig, dello 007 in servizio permanente in questo momento. Hanno indovinato che si trattava in questo caso di Casino Royale, Antonello Gagliardi di Lucera, provincia di Foggia, e Saverio Lossito di Cesano Boscone, provincia di Milano, che riceveranno questo splendido cofanetto con i film di Daniel Craig nei panni di 007. E per raccontare questa edizione noi ritroviamo, dopo pochi minuti, Claudio Pofi. Claudio. Da 20th Century Fox Home Entertainment, un cofanetto che contiene i due Blu-ray con i primi due film in cui Daniel Craig ha impersonato l'agente 007. Si tratta degli stessi dischi già venduti separatamente, entrambi di strepitosa qualità d'immagine e un audio esclusivo sia in italiano che in inglese. Sono tanti gli extra per approfondire la lavorazione, con immagini dai set, interviste, gli effetti speciali, le sequenze di stuntman, ma ci sono anche dei video musicali. 2012 torna nelle sale un personaggio molto sfruttato negli ultimi anni dal cinema, cioè l'Uomo Ragno con The Amazing Spider-Man. La genetica dell'incrocio delle specie finalmente funziona. Ho usato il DNA di una lucertola per far ricrescere l'arto a Freddy. È un miracolo. No, è duro lavoro e speranza ed è il primo passo verso il lavoro sui primati. No, lui non ha tempo per ogni piccolo passo. Piccolo? Voglio dire che non può aspettare. Beh, invece dovrà, se non vuole diventare una cavia. Non è quello che sto dicendo. Allora cosa sta dicendo? Deve cominciare gli esperimenti umani. Adesso. No, adesso no. E non intendo farlo. Peter Parker è un liceale un po' nerd, appassionato di scienze, che da piccolo perse i genitori in circostanze misteriose e poi cresciuto dagli zii. Mosso da un ragno geneticamente modificato, si trasforma anch'esso, scoprendo di avere incredibili potenzialità e doti tipiche dell'aracnide. Si troverà presto a confronto con un folle scienziato che lavorò per anni al fianco del padre, mutato in una mostruosa lucertola per un'errata sperimentazione. Interessante reboot della serie dell'Uomo Ragno, curato da Mark Webb, subentrato Sam Raimi nella regia, nonostante avesse alle spalle solo una commedia romantica. L'edizione on video di Sony Pictures Home Entertainment è di pregevole qualità, in alta definizione, è disponibile un Blu-ray con la possibilità di visionare il film sia in versione 3D stereoscopica, di eccellente fattura, che in 2D. Abbiamo una traccia DTS ad alta risoluzione in italiano di grande qualità e Dolby Digital multicanale per l'inglese. Come extra segnalo il commento sul film in compagnia tra gli altri del regista, una scuola interattiva di cinema in 3D sempre con Mark Webber, ma è molto interessante anche l'analisi degli stadi del 3D. 1993, Bernardo Bertolucci firma il suo primo film con i bambini come protagonisti, si intitola Il piccolo Buddha. Il bambino riceverà un'educazione particolare e potrebbe diventare una figura importante della nostra società, un leader spirituale. Anche se è americano? Insomma, cosa offrite a Jesse? Di vivere in un monastero buddista, è questo? Certo, se è questo che lui vuole. Oppure può continuare la sua vita qui e decidere quando sarà grande. Ma prima, per essere sicuri di questa reincarnazione, dovremmo portare Jesse nel Bhutan. Jesse Conrad è un bambino che vive a Seattle con i genitori, una vita del tutto comune, almeno fino al momento in cui una delegazione di monaci buddisti provenienti dal Bhutan non entrerà nella loro vita, asserendo che il piccolo è di fatto la reincarnazione di uno dei loro più rispettati lama, chiedendo di portare il bambino con sé in Bhutan per confermare la loro ipotesi. Bertolucci nel 1993 realizza un coinvolgente e ambizioso progetto, raccontando l'avventura moderna della reincarnazione e al tempo stesso quella antica del principe Siddhartha Gautama, detto il Buddha, un contrasto non solo temporale, geografico e culturale, ma anche intensamente cromatico. Da Lucky Red un Blu-ray di buona qualità, con momenti in cui la grana si fa sentire, ma comunque capace di restituire la spettacolare cinematografia del maestro Vittorio Storaro, che distinse i due racconti tra passato, filmato in 65 mm e presente nel formato più comune 35 mm. Dignitoso l'audio, con una doppia traccia DTS ad alta risoluzione italiano e inglese, sono entrambi a due canali. Come extra abbiamo solo il trailer. E allora questo era il Blu-ray di Piccolo Buddha. Grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. Un saluto, a presto! E allora abbiamo chiuso la nostra corsa, puntata molto ricca, grazie a Claudio Poffi, a cui abbiamo fatto fare gli straordinari anche per raccontarci questa edizione in Blu-ray di Blade Runner. Abbiamo sentito la voce di Rutger Hauer. Settimana prossima, altra settimana straricca di nuovi film in sala, un'altra dozzina, ma del resto, come dicevo, la volata natalizia è assolutamente cominciata. Vi ricordo sempre la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24, cercatela, cliccate mi piace. Vi diamo tante informazioni man mano che si avvicina la trasmissione. Il film consigliato della Rosa Purpurea il giovedì, che è diventato il nuovo giorno di uscite cinematografiche, il venerdì in anticipo i titoli della trasmissione, i contenuti principali della trasmissione del sabato, dal lunedì il podcast per poter riascoltare la trasmissione dove e quando volete. Insomma, potete scriverci le vostre impressioni, potete dirci che film avete visto, cosa ne pensate. La Rosa Purpurea Radio 24 su Facebook, cliccate mi piace, unitevi alla nostra comunità. È arrivato il momento di chiudere, grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Fabio Cantadori che ci ha seguito oggi in regia. Appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Franco D'Assisi.